Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, quarta puntata dedicata alle città nella tempesta. Vi parliamo di un progetto europeo, il progetto si chiama No for Disaster Risk Reduction, cioè conosci per ridurre il rischio. Ce ne parla Chiara Albicocco, che ne ha intervistato la coordinatrice, Shira Menoni, docente del Politecnico di Milano di analisi e valutazione dei rischi territoriali. Sentiamo com'è andata. Allora, il progetto No for Disaster Risk Reduction, che quindi riguarda le conoscenze nell'ambito della gestione dei rischi, non solo per quanto riguarda le emergenze, ma anche le capacità che abbiamo di prevenzione e di intervento nel dopo evento, possibilmente per ricostruire migliorando la situazione preesistente, è un progetto che nasce proprio da un bando della Commissione europea che chiedeva di spiegare e possibilmente di fare delle proposte per far sì che le conoscenze che vengono sviluppate ad esempio in ambito scientifico, nella ricerca, siano poi meglio utilizzate nelle decisioni e nelle strategie di prevenzione. I problemi sono molti perché sono tanti gli attori sul campo e quindi è necessario dotarsi ormai di strumenti più sofisticati che non sono solo dei database o dei sistemi informativi che ci consentono di gestire una grande mole di informazioni. Abbiamo bisogno proprio di piattaforme migliori per accedere alle conoscenze che sono state sviluppate da diversi soggetti e per condividerle. In pratica tutti i dati, le informazioni che ad esempio hanno gli scienziati, in questo caso i climatologi, dati relativi al clima, oppure i geologi, possano in qualche modo mettere a disposizione di coloro che poi sono gli attori che prendono parte alla gestione di un'emergenza, e affinché siano sempre più comprensibili in qualche modo, è così? È proprio così, infatti la Commissione europea insieme all'Agenzia ambientale europea ha messo a punto una piattaforma su web che tutti possono vedere, che si chiama Climate Adapt, che è proprio finalizzata a far condividere, far conoscere le ricerche, le sperimentazioni, anche le buone pratiche che sono state messe in atto in diversi paesi, in diverse regioni per l'adattamento al cambiamento climatico. In modo abbastanza simile, un altro organismo delle Nazioni Unite che si chiama UN Spider ha sviluppato un portale proprio per far accedere alle conoscenze in materia di mappatura dei rischi e di come le immagini satellitari possono essere utilizzate per la gestione dell'emergenza. In che modo allora adesso voi state lavorando affinché tutto questo riesca ad essere efficace? State mettendo a punto attraverso anche delle forme piuttosto particolari, avete fatto ad esempio un gioco di ruolo che simulasse ad esempio l'alluvione in una città che è Rotterdam, l'avete simulata in un incontro recente a Bolzano e sono venute fuori proprio le criticità, le problematiche tipiche di un'emergenza, e a quel punto avete capito parecchie cose. Allora sì, perché la condizione prima per poter costruire qualunque sistema di gestione delle conoscenze efficace è capire di che cosa i diversi soggetti hanno bisogno e di come possono collaborare efficacemente insieme. I giochi di ruolo, le simulazioni, le stesse esercitazioni che vengono fatte anche dalla Protezione Civile sono un modo perché diversi soggetti, diversi attori possano incontrarsi e condividere insieme un'esperienza. Questo gioco, che è stato sviluppato da gruppo di giovani, molto giovani studenti dell'Università di Rotterdam, aveva come obiettivo proprio quello di far giocare i diversi responsabili della Protezione Civile e il sindaco della città di Rotterdam per far loro comprendere nel vivo di un'azione che cosa si rischia, quali sono le poste in gioco, come si può meglio intervenire. Cos'è emerso? Quello che emerge è che le persone capiscono non solo di quali informazioni hanno davvero bisogno e che magari non hanno a disposizione nel momento in cui devono assumere le decisioni, ma un po' capiscono quali sono le criticità a cui i loro colleghi vanno incontro e capiscono anche quali sono, qual è il bilancio tra costi e benefici che ogni volta bisogna fare quando ad esempio si decide l'evacuazione oppure di salvare il quartiere dove è presente l'ospedale più importante della città piuttosto che decidere di far allagare creare dei quartieri residenziali. Grazie Chiara Albicocco e a Shira Menoni. Noi ci sentiamo domani per parlare di lotta alle ondate di calore. Buona serata.